prego, dirà tutto lui, anche forse non c'è un titolo preciso, no. Sono tenuto. Durante le guerre d'Italia, al confronto armato tra gli stati nazionali del primo Cinquecento, ancora giovani, si collega un'identificazione di caratteri nazionali, non più circoscritti al vecchio ordo dei bellatori, finalizzati alla guerra. Le vite di Consalvo di Cordova, del Marchese di Pescara, di Paolo Giovio, mostrano nei momenti di riposo degli accampamenti dei fanti delle guerre italiane, si tratta sempre, notate bene, di milizie miste, secondo il modello machiavelliano, quindi di eserciti plurinazionali, compositi, mostra un'abitudine allo scherno, alla competizione tra le nazioni, in cui i fanti di ciascuna nazionalità scherniscono, insultano i fanti delle altre nazionalità con appellativi che tendono a identificare delle caratteristiche spregevoli di ciascuna nazione. Ora, gli italiani sono omosessuali, gli svizzeri sono mungisac e cose di questo genere. Però direi che l'aspetto più importante è che si identificano delle nazioni di fanti, la Spagna, delle nazioni di cavalieri, la Francia, e delle nazioni di mercenari, gli svizzeri e i tedeschi. A questo proposito è d'obbligo la citazione di Machiavelli, laddove comprende la connessione tra l'essere cavalieri francesi e non fanti con la struttura sociale francese, dove dice che in Francia non si reclutano buone fanterie perché tanto i popolani sono sottomessi ai nobili che sono vili. E laddove, parlando della battaglia di Ravenna, mi pare sempre nel ritratto delle cose di Francia, identifica tout court i francesi con i cavalieri pesanti, con la gendarmerie, e gli spagnoli con la fanteria. È inutile che sottolinei come la nazione che consente il reclutamento dei fanti, la struttura sociale che consente il reclutamento dei fanti, è assai più utile per una guerra moderna di quanto non lo sia la nazione in cui la vocazione militare è circoscritta ai soli bellattori. In questo contesto della guerra d'Italia si colgono con grande evidenza degli elementi, l'intrecciarsi di elementi di conservatorismo, di trasformazione, di progresso nell'immagine della guerra e nell'iconografia militare. Dal punto di vista della tradizione, è ovvio che la nobiltà, sebbene continui ad essere classe egemone socialmente, sebbene in crisi sul piano militare nella sua tradizionale espressione della cavalleria pesante, la quale non vince più le guerre. Ed allora, da un'altra parte però, l'aristocrazia guerriera cerca di conservarsi fedele alle esclusive tradizioni feudali dell'ordo militum, almeno a livello di vita interna, cioè non più di competizione nazionale, ma quantomeno di vita interna allo stesso ordo. Quindi perdurano modelli cortesi e cavallereschi, perdura per tutto il Cinquecento, come ha mostrato Chevalier a proposito della Spagna, il successo della novella de cavalleria, cioè della narrativa cavalleresca, contro cui poi Don Chisciotte si scaglierà, ma anche qui è una posizione non tanto chiarita in due parole. Ed allora continuano a leggere racconti di cavalleria i re cattolici, Carlo V, lo stesso Marchese di Pescara, eroe delle guerre d'Italia, il quale dirà, anche se poi l'affermazione risulta, confrontandola con l'attività di comando del Pescara, abbastanza inspiegabile, di dovere il suo amore alla gloria, alla lettura dei vari Amadise. Nello stesso tempo la cultura e il cerimoniale cavalleresco, come ha mostrato la Yates, hanno anche un valore politico di instrumentum regni. Pensiamo all'ordine del Toson d'Oro, ai suoi cerimoniali e alla volontà di Carlo V di mobilitare l'aristocrazia di tutti i suoi stati per la crociata, sia essa contro il turco, contro Francesco I che si allea al turco, o contro i luterani. Si è detto, per inciso, Avila Zuniga mostra come Carlo V, prima di partire per la Germania a reprimere il luteranesimo, convochi l'assemblea del Toson d'Oro quasi a legittimare la sua figura di nuovo crociato. Ecco, esistono quindi elementi di conservazione nella cultura cavalleresca, negli atteggiamenti cavallereschi, anche se, almeno in parte, inseriti nel contesto dello Stato e della sua politica. Dal punto di vista opposto, non più quello della tradizione, ma quello del progresso e dell'evoluzione, è altrettanto vero che i nobili del Cinquecento, sto parlando qui del primo Cinquecento, ma ovviamente il discorso non cambia, l'idea che ci nutriamo, se vogliono servire il re in guerra, quindi continuare a svolgere la loro funzione militare, devono adeguare sul piano professionale le loro prestazioni alle mutate circostanze della guerra, e quindi devono fare i conti con una guerra che è sempre meno cortese, pensiamo alle armi da fuoco, e anche qui all'atteggiamento ambiguo, pensiamo alla corte di Ferrara e all'Ariosto che scrive contro l'archibugio, però nello stesso tempo ricordiamoci che Alfonso X si vince la battaglia di Ravenna con i cannoni prodotti nelle sue fanterie. E nello stesso tempo devono fare i conti con grandi eserciti, non userei il termine di massa, ma certo più interclassisti, che rendono sempre più difficile nel contesto generale della guerra il rispetto del vecchio codice cavalleresco che era stato reso possibile dalla circostanza che la guerra per tutto il Medioevo era stata circoscritta ad un solo ceto estremamente corporativo. Infine devono misurarsi i nobili con gli aspetti logistici e finanziari della guerra. Chi legga la vita di Consalvo di Cordova di Paolo Giovio si rende conto di come l'attività di comando del gran capitano sia volta, sembra quasi esclusivamente, a trovare i denari per pagare i soldati e i rifornimenti per continuare la guerra. Il coltivare da parte dei condottieri aristocratici la nuova virtù della prudenza piuttosto che la tradizionale virtù cavalleresca dell'ardimento e dunque la teorizzazione per esempio della resa come atto virtuoso e nobile in quanto conserva intatto il potenziale militare del sovrano dello Stato e consente di continuare a combattere e di giocare un'altra volta sulla battaglia i destini dello Stato. Infine, per usare un'espressione d'origine machiavelliana ma largamente ricorrente nella trattatistica dell'epoca, devono smettere la pelle del leone per vestire la pelle della volpe, devono e possono, contrariamente al cavaliere medievale, mettere in atto ogni stratagemma, ogni slealtà possibile pur di vincere la guerra in vista della drammaticità che questa competizione tra gli stati ha ormai assunto. Ecco, torniamo a Consalvo di Cordova, il gran capitano, e al marchese di Pescara Fernando d'Avalos come sintesi, mi pare, della mutata fisionomia dell'uomo di guerra e di una trasformazione generale dell'iconografia del soldato aristocratico. Sia Consalvo che Fernando d'Avalos fanno le prime armi, il loro apprendistato militare come cavalieri o come comandanti di cavalieri. Cioè, secondo un modello tradizionale, il gran capitano durante la guerra di Granada e il marchese di Pescara alla battaglia di Ravenna, e conservano, certo il primo molto più del secondo, atteggiamenti e virtù per tutta la loro carriera del loro ordo d'origine: cavalleria con le donne, magnanimità col nemico vinto, religiosità e soprattutto liberalità, cioè la tradizionale virtù aristocratica che consente al nobile di maneggiare il denaro riciclandolo, facendolo circolare, come dice Gibi, e quindi non sporcandosi le mani. Però poi, per continuare la loro carriera, devono passare a condurre santi e devono trattare con questi santi, cioè con eserciti plebei e con plebei che si sono resi indispensabili allo Stato della sua politica e quindi hanno acquistato una grande capacità contrattuale nei confronti della classe dirigente e degli organismi dirigenti dell'esercito dello Stato. Esempi, alcuni esempi molto rapidi: la liberalità di Consalvo di Cordova con i nemici, la generosità scontenta i santi, cioè non apprezzano questa virtù cavalleresca e chiedono di essere pagati. Ancora un altro esempio, secondo me estremamente significativo, che mostra la modificazione dei comportamenti e la necessità da parte del nobile di trattare col plebeo. Mancano i soldi per pagare i santi in Puglia, i santi spagnoli, in questo caso scendono prendono, i fanti si ribellano, sono sull'orlo dell'ammutinamento, Consalvo va a trattare. E uno di questi fanti gli dice: se non hai soldi, manda le tue figlie al bordello. Oltraggio clamoroso e sanguinoso che nessun cavaliere avrebbe potuto sopportare. Consalvo è costretto ad abbozzare di fronte alle masse di fanti tumultanti, salvo poi in nottetempo fare impiccare il soldato in questione. Ecco, si unisce quindi la contrattualità e il prestigio dei fanti con la necessità di nuovi atteggiamenti. Direi però che il nuovo prestigio militare e sociale dei fanti, non sempre plebei, guardate, ma direi in generale plebei, si manifesta soprattutto nell'obbligo di assunzione da parte dei condottieri aristocratici di modelli di comportamento e di sistemi di combattimento che sono desunti dalla vita della fanteria e che nello stesso tempo, in quanto assunti dall'aristocrazia, contribuiscono a legittimare e a rinalzare il prestigio degli stessi fanti, cioè c'è una reciprocità in tutto ciò. Ancora, durante la marcia verso Cerignola, Consalvo, per risparmiare le preziose forze delle sue fanterie, la marcia sotto il sole, vuole che ciascuno dei cavalieri prenda sulla groppa del suo cavallo un fante, fatto ugualmente abbastanza clamoroso. E se vuol indurli a fare questa cosa, deve dare l'esempio facendolo per primo. Si è detto, per inciso, che un episodio del genere lo ritroviamo nel Don Chisciotte, quando Don Chisciotte, anche lui in una solata strada di Castiglia, trova un paggio che ha abbandonato la vita di Madrid, in cui il piccolo nobile si deve ridurre a fare da criato, da servo, alla grande nobiltà, e ha scelto una via più onorata, cioè servire il re in guerra, e va in uno dei porti d'imbarco, probabilmente Cartagena, era sempre lì, per partire per l'Italia o per le Fiandre. Stanco, si porta il suo fagottino, probabilmente, se non ricordo male, con le scarpe per risparmiare, e Don Chisciotte lo prende per la prima e unica volta in tutto il romanzo, ingrossa al suo rondinante. Quasi, qua non vorrei essere eccessivamente immaginario, ma mi sembra che ci sia da parte di Don Chisciotte, cavaliere errante, il tentativo di legittimare, di assumere il fante che ha fatto una scelta onorata come membro dell'ordo. E qui io avrei un'idea, cioè che Don Chisciotte, in quanto idalgo, in quanto cavaliere, cioè membro di quella che secondo me è la classe media, e nello stesso tempo il serbatoio, l'area di mobilità sociale della società castigliana del Cinquecento, sia una sorta di amministratore di questo nuovo ordo dei bellatori funzionalizzato allo Stato. Con chi entra in contatto? Scusate, questo è un inciso tardo cinquecentesco o pre-seicentesco che intendo chiudere quanto prima. Entra in contatto col Duca, la famosa casa dei duchi, dove la cavalleria è ridotta a cerimoniale, vuoto, privo di significato e di utilità pubblica. Entra in contatto col paggio che va alla guerra. E Don Chisciotte può assumere il Duca come elemento negativo, inutile, parassitario di quell'ora, la polemica tardo-cinquecentesca della piccola nobiltà contro la grande nobiltà che ha tradito la vocazione. E nello stesso tempo assume il fante, anche se in qualche modo già gentiluomo, come membro di quello stesso ordine. È l'esempio invece più bello della società militare del suo tempo, e oltre a Don Chisciotte stesso, il famoso capitano Biscaglino, uno dei tre fratelli, che è chiamato dal padre a scegliersi la professione, decide di scegliere la milizia in quanto più onorata e più nobile di tutte le professioni. Ecco, comunque quello che mi interessa mettere in evidenza è come l'idalghia e Don Chisciotte per essa si assuma il diritto e il compito di mediare all'interno delle diverse componenti, pur sempre aristocratiche in genere, della funzione militare. Pescara va oltre, Pescara appartiene a una fase successiva, cioè la fase dell'impero rispetto a quella dei re cattolici, e va oltre nel suo rapporto con i fanti, assumendo, mi pare, scientemente, freddamente, con calcolo politico, la fisionomia di quei fanti che si appresta a guidare. Dice infatti Giovio: così facendo si apparecchiava all'imperio degli uomini, cioè ha un contenuto consapevole. cioè di quegli uomini che si apprestava a guidare, peccava a piedi, si arma come fante, lo vediamo scalare le mura delle fortezze, fare tutte quelle cose che faceva un fante, badate, senza perdere per nulla in nobiltà. Ecco, così i fanti, dunque, sempre più orgogliosamente corporativi sul piano militare e non solo militare, possono permettersi di schernire i cavalieri aristocratici, di essere orgogliosi della loro professionalità, cioè del loro combattere a piedi, però anche di individuare nel cavallo, per esempio, uno status symbol. E allora questi stessi fanti, quando Pescara li vuol privare dei cavalli, di cui non si servivano per combattere, ma per camminare, per marciare, ancora una breve notazione, durante la marcia, i trattati della fine del Cinquecento, i trattati in Italia della fine del Cinquecento, descrivono la fanteria, i fanti castigliani, come provvisti di cavalli e di criado, cioè di servi. Usciti dall'accampamento, il fante montava sul suo cavallo e mandava il suo servo con la picca o con l'archibugio ad occupare il suo posto tra le file. In combattimento poi il fante scendeva da cavallo, tornava tra le file, si riprendeva la picca o l'archibugio e svolgeva la sua funzione. Quindi ecco che il cavallo è uno status symbol, però non è uno strumento di guerra. Ecco, questo sulla... quindi ha un ruolo già non più tanto chiaro, e che è in qualche modo testimonianza della coesistenza tra vecchio e nuovo. Questo stesso sincretismo, ancora più chiaramente manifestato, si coglie nel campo più tradizionalmente aristocratico cavalleresco, cioè il duello, l'ascensione e la sfida. E allora, accanto alla guerra vera, drammatica, plebea, mortale, mi pare che soprattutto nel periodo della disfida, delle famose disfide di Barletta, accanto a quella tra italiani e francesi, c'è un'altra precedente tra spagnoli e francesi, i nobili cerchino di ritagliare all'interno della guerra uno spazio per il Beigesto. Però introducendo in questo spazio del bel gesto, o meglio si introduce in questo spazio del bel gesto una componente sempre più moderna, che è la componente del confronto tra nazioni, cioè la persuasione che l'elite sociale e militare, i cavalieri, entrando in competizione, possa in qualche modo testimoniare delle virtù di quella che si suppone essere la parte migliore della nazione. Anche qui naturalmente c'è un'evoluzione degli atteggiamenti. E questa coesistenza di vecchio e nuovo viene espressa in modo sorprendente da un trattato di un uomo di Carlo V, cioè Fortunio García de Ercilla, autore di un trattato della guerra e del duelo. Fortunio García de Ercilla da una parte respinge la sfida privata e dall'altra parte invece considera giusta e opportuna il famoso progetto di sfida tra Carlo V e Francesco I per la soluzione della guerra. Che cosa vuol dire? Secondo me questo. Vuol dire che il re sta concludendo il suo processo di riappropriazione della guerra e della pace, e che può scegliere di combattere la guerra contro i propri nemici, altri stati, che non riconoscono nessuno stato più alto al di sopra di loro, può condurla come meglio crede, dice Garcia del Figlio. Può usare il suo ministro, cioè i soldati, o può invece essere egli stesso ministro della sua guerra. Però, ecco l'elemento, mi pare, di modernità. La guerra non è più, il duello, in questo caso Francesco I e Carlo V, non è più il vecchio giudizio di Dio, ma invece la tappa conclusiva di questa riappropriazione, ed è soprattutto uno strumento di propaganda, cioè il confronto tra questi due principi, uno legato al vecchio modello di cavaliere orgoglioso, individualista, eccetera, Francesco I, e l'altro il sovrano, l'imperatore, che guida pacificamente tutti i suoi popoli, dovrebbe far venire in luce con chiarezza le ragioni dell'uno nei confronti dell'altro. Ecco, in questa nuova dimensione che subordina gli interessi privati a quelli dello Stato, anche i fanti accedono al duello, episodio ugualmente molto importante. Durante l'assedio di Marsiglia, secondo modelli omerici e cavalleresi, un fante francese e un fante spagnolo si misurano si interrompe la battaglia, è naturalmente il fante spagnolo, di cui tutte le cronache barate danno biografia, futura carriera, cioè si parla anche di lui, vince. Però badate, prima di fare questo ha chiesto licenza ai suoi superiori. Infatti uno degli episodi più ricorrenti nella trattatistica militare spagnola del 500 è quello famoso, chi era, Bruto o Torquato, le fonti, cioè le indicazioni non concordano, del console romano che fa uccidere il proprio figlio, il quale ha compiuto uno straordinario gesto di valore, però contravvenendo agli ordini del padre padrone. Ecco, quindi vorrei... in questa forma temporale, posso andare? Sì. No? Sono grosso modo a due terzi, sì. Vado, mi state divertendo? Sì. Ecco, quindi c'è una necessità, mi pare, di controllare e finalizzare la violenza delle fanterie plebee, limitandola, cioè finalizzarla alla politica degli stati e limitandola con l'unico codice di comportamento militare a disposizione fino ad allora, cioè un codice che è in larghissima misura aristocratico, arricchendo questo codice, è ovvio, di elementi nuovi che sono principalmente tecnici: armi da fuoco, la fanteria, le formazioni, il rapporto individualismo esercito come insieme, ma anche legati allo scontro tra nazioni, alla drammaticità nuova che la guerra è venuta assumendo, alla disciplina militare come aspetto della disciplina generale, della disciplina politica e religiosa, e quindi al valore che l'obbedienza come virtù militare è venuta assumendo. Ed allora l'onore del fante, quella famosa honra che è cardine dell'ideario castigliano per tutto il 500 e poi anche oltre, ha chiaramente un valore aristocratico di partenza, che però tende a divenire in buona misura collettivo quando, e qui se non ho capito male già ne parlava Chiera, quando l'onore individuale diventa nello stesso tempo virtù politica e diventa il buon agire dell'uomo nel contesto generale dell'esercito o dello Stato, e quindi si riconnette anche a una funzione pubblica della milizia e dell'attività militare, e diventa un valore essenziale questo onore che ha una matrice aristocratica per la mobilitazione di una società per la guerra, è un forte strumento di coesione ideologica della società castigliana. A questo punto vorrei parlarvi di un libro molto bello e direi quasi straordinario, cioè di un grande affresco di quella che già secondo me possiamo cominciare a chiamare società militare castigliana degli anni 40-50 del 500, che è il dialogo della vita del soldato di Diego Núñez Salva, personaggio che secondo Marcel Bataillon è erasmiano. Addirittura secondo Bataillon, qua non sono tanto d'accordo, i dialoghi di Núñez Salva sono un rifacimento dei dialoghi di Erasmo tra il certosino e il soldato o delle confessioni del soldato. Sono ben poco d'accordo, perché all'antimilitarismo senza remissione di Erasmo qui non si contrappone lo stesso antimilitarismo. Si tratta di un dialogo on the road, cioè si svolge su una strada immaginaria che porta dalla Castiglia ai fronti di guerra, in cui si incontrano due interlocutori principali, Milizio e Cliterio. Aspetto notevolissimo: da lontano Milizio, veterano che torna dalla campagna di Germania contro i luterani, riconosce in Cliterio non soltanto una recluta dal modo di camminare e di muoversi, un bisogno, come si chiamavano, ma un compaesano e un cugino. Anche qui non voglio immaginare troppo, ma mi pare che ci sia un accenno chiaro alla non frattura tra società civile e società militare. Cioè i soldati si riconoscevano nell'esercito e continuavano ad intrecciare quegli stessi rapporti che avevano nella vita civile. nei catechismi dei soldati del Cinquecento si avverte spesso la recluta, si invita la recluta all'onore, perché poi l'onore accumulato in guerra gli servirà come patrimonio nella vita civile, gli permetterà per esempio di fare buoni matrimoni. Ed allora si riproduce su questa strada immaginaria un rapporto di apprendistato tra il vecchio e il giovane, che sono vecchio e giovane soldato, ma sono anche vecchi e giovani paesani o compaesani. Quindi il nostro milizio ha un atteggiamento ugualmente ambiguo nei confronti della guerra, che risente della matrice erasmiana, però risente anche dell'essere egli membro di una società militare, ed allora ha gli atteggiamenti tipici del grognà, la guerra come sacrificio, come sofferenza, una professione che non viene ricompensata, però poi si esalta quando racconta i prodigi di valore della sua nazione e della fanteria spagnola contro gli odiati tedeschi. Quindi orgoglio professionale e consapevolezza degli aspetti duri della guerra. Il milizio e il criterio incontrano dei camminanti, cioè degli altri personaggi ugualmente membri della società militare. Questi camminanti sono un barracciere de campagna, polizia militare, un contador o un veedor, non ricordo bene, ma un membro, un funzionario civile addetto agli approvvigionamenti dell'esercito, e un capitano. Scala di valori: più in alto il capitano, il barracciere e il veedor. Evidenti inizi di una polemica antiborghese della società militare castigliana, per cui, ancora una volta, inversione del valore sociale del cavallo: il veedor o il contador va a cavallo, il ricco non è più florido, il capitano, che è invece valoroso, onorato e nobile, va a piedi, ed è il capitano il più edificante, il personaggio più edificante tra questi incontrati. Dunque, incomincia a prendere forma la medietà del soldato gentiluomo nobile. Il soldato gentiluomo è un personaggio medio nella società castigliana. Ai due estremi ci sono il grande, nel senso di grande aristocratico, traditore della sua vocazione militare, la polemica contro la Zordene, cioè questi grandi organismi creati per combattere i mori che ormai si sono risolti invece in pura pompa cavalleresca. All'altro estremo la borghesia, chi maneggia il denaro e si arricchisce sulla società e sull'esercito. Notate che anche qui me l'ha richiamato il tuo intervento, se no non l'avrei voluto dire, in un trattato di Núñez de Velasco sulle professioni nobili o no, la discriminante tra le professioni nobili o no viene data proprio dalla funzione militare. Allora si respingono per esempio le professioni artigiane, si respingono gli operai, e invece si includono i pastori e i contadini. Cioè si suppone che le professioni non urbane, ma invece legate al mondo dei campi, è lo stesso discorso un po' della caccia che introduce alla guerra, che le professioni non urbane, cioè che la salute venga per tornare a Guevara, dall'aldea, che il non tradimento della società d'ordini venga dall'aldea, mentre il luogo di tradimento della società d'ordini sia la città, o nel caso di Madrid, e anche qui ci sarebbe da parlare moltissimo della corte, Madrid sia invece un luogo di tradimento. Pensate soltanto alla polemica contro i soldati che vanno sul loro memoriale, stati di servizio a Madrid, a pietire alla corte, al re, ai nobili presso i quali hanno le raccomandazioni, delle gratificazioni, dei soldi, delle ventate. Scusate, rischio di perdere clamorosamente il filo. Ecco, quindi i fanti spagnoli, questo ceto medio, che non è come origini necessariamente hidalgo, ma che certamente subisce l'influenza dell'ideologia hidalga in quanto piccola aristocratica e media, individua gli avversari, l'obiettivo polemico, nei meccanici, negli operai e nei mercenari, in quanto operai della guerra. I tedeschi e gli svizzeri sono questi modelli negativi di soldati operai, e lo dicono chiaramente gli spagnoli: hasta en la guerra como obrero, fanno la guerra come operai e non come soldati onorati. E quindi l'atteggiamento nei confronti del soldo, sto finendo, l'atteggiamento nei confronti del soldo come direi rappresentazione evidente di questa medietà. Il soldo è il simbolo, è il salario reale, cioè il simbolo del servizio onorato all'autorità civile, cioè quella del re che ha assunto prestigio. E al soldo si contrappongono il saccheggio, si contrappone l'atteggiamento di chi serve anche soltanto per il soldo, cioè il soldo è legittimato soltanto se legato all'onore e se è legato alla consapevolezza di servire il re. Quindi, peraltro, però è inutile sottolineare come questo atteggiamento nei confronti del soldo solleciti da una parte la giustizia retributiva del re che si serve e dall'altra parte sia anche, nella misura in cui è connesso all'onore, un tentativo di argine ideologico alla piaga degli ammutinamenti, cioè anche qui di rendere più affidabili le milizie di fanteria. Ecco, ancora un salto, al tempo di Cervantes, mi pare che questa, come ho cercato molto rapidamente di dire prima, questo itinerario verso la identificazione di nobiltà, povertà, milizia, sia più o meno concluso. Non soltanto nel Chisciotte, ma anche nel teatro nordafricano, la Grande Sultana, se non ricordo male, i Bagni di Algeri, questo fatto c'è. Il nobile povero serve il re e ne viene ricompensato con un salario che gli consente di conservare nella società civile e militare la sua condizione di gentiluomo. Per concludere vorrei dire questa polemica contro i soldati operai trova il suo momento e nello stesso tempo tutto il cammino di consolidamento ideologico della società militare castigliana ha un momento grande importanza nella guerra di Germania. Nella guerra di Germania i tedeschi diventano finalmente i nemici. I rapporti tra stranieri e tedeschi non erano idilliaci neppure al tempo dei cattolici, lo sono ancor meno al tempo di Carlo V, e finalmente i tedeschi sono identificati come eresi, ribelli e per di più mercenari. Quindi all'interno della guerra si raggiunge questa grande chiarezza sulle virtù negative dei tedeschi e all'interno anche ovviamente della competizione, della conflittualità tra le diverse componenti nazionali dell'impero di Carlo V. Ai tedeschi si contrappongono i castigliani, che sono cattolici, che sono fedeli, che sono onorati e che fanno la guerra in un modo diverso. Il momento dell'apoteosi mi pare Nürnberg. A Nürnberg attorno alla battaglia di Nürnberg confluiscono diverse linee ideologiche e diverse suggestioni. L'immagine imperiale, Carlo V, o meglio le aquile imperiali che sorvolano, non si tratta di aquile imperiali, ma di vere aquile, che sorvolano i terzi in marcia verso la battaglia. Carlo V che nello stesso tempo assume comportamenti e dice parole degne di Cesare, dice qualcosa come geni, eccetera. E quindi si innesta il meccanismo di identificazione spagnoli-romani, cioè gli spagnoli sono gli eredi dei romani, Carlo V è l'erede degli imperatori. Però lo schema interpretativo non è così semplice, secondo me, come lo rende la Yale, quando dice che Carlo V è l'erede di Marco Aurelio, o meglio, in Carlo V ci sono l'imperatore romano e il re guerriero del Medioevo. Il ritratto di Tiziano, Carlo V alla battaglia di Nürnberg, non è inventato. La stessa descrizione dell'abbigliamento, del cavallo, fino ai minimi particolari, la troviamo in una cronaca, che è la guerra d'Alemagna di Luis De Avila, il Zuniga. La descrizione è perfetta fino alla fascia cremisi che attraversa la corazza di Carlo V. Ebbene, c'è anche però un collegamento tra il ritratto di Carlo V e le descrizioni di Pescara e Gonzalo di Cordova durante la battaglia d'Italia. Il cavallo leggero, cioè una figura mista, cavaliere fante, è un tredinio tra il vecchio cavaliere e il nuovo santo. Per esempio, il Pescara, quando saliva a cavallo, non smetteva l'armatura da fante, quindi è un fante cavaliere. E questo mi pare che sia, non sia il caso di sprecare parole. Ed allora mi pare che Carlo V a Nürnberg, al di là delle pure esistenti suggestioni romane, che del resto ho ricordato, anche delle suggestioni medievali, sia una sorta di idealizzazione del fante. E non dimentichiamoci che Carlo V, prima della battaglia, sente messa e mangia coi fanti castigliani, e che l'abbigliamento di Carlo V non è da cavaliere, non so se tutti si ricordano il ritratto di Carlo V, non è un abbigliamento da cavaliere pesante, ma è veramente non impugna una lancia, ma una picca. Non è d'accordo, Mozzarelli? Sì, ne parliamo. Io comunque ho finito. Volevo dire una cosa molto bella, va bene, ma dico. Abbiamo un'ora abbondante, un'ora e un quarto di per la discussione, perché io direi di iniziare con un po' come ieri, dicendo che a ogni intervento io direi di non bloccare gli interventi sui testi di meno più possibile, di farli in modo casuale, insomma. Direi che viene meglio. Sì. Fenomeni che sono, e che quindi costituisce un osservatore, secondo me, estremamente enormi interesse per cogliere alcuni processi in corso della formazione di alcune categorie critiche di interesse. Anche strano che questo invece non sia stato un punto sufficientemente studiato, in genere è stato così, quello meno considerato nel quadro della fotografia sulla formazione di Stato moderno. E infatti mi veniva di alcune cose che già che diceva in questa mattina, pongono subito in luce degli aspetti da sottolineare. Però il Senato ha presentato il rapporto tra le istituzioni. A caso di Rano condiviso, anche questo terreno un rilievo europeo enorme. Il problema della norma perché questo tribunale appunto ha una doppia funzione, è tribunale di suprema istanza come tribunale territoriale, quindi in materia di proprietà, e invece il tribunale non corrisponde a questa gerarchia di istituzioni, ma è il tribunale quale sono cose direttamente perché è questione di quanta da qualsiasi parte del mondo, cioè è un tribunale universale ed è un tribunale. Questa doppia funzione, che è permanente, che dura fino a fino a fino ai giorni nostri, è una doppia funzione che non sempre è avvenuta con ma fin dalla fine del 400 invece viene sottolineata con notevole chiarezza. Quando alla fine del 400 Guilherme Cassador comincia a raccogliere le sentenze della Rota, poi via via le sentenze della Rota costituiscono poi delle raccolte di pulizia, e questa doppia rete comincia ad essere individuata, anche qui è De Luca poi l'autore diciamo più rilevante, più significativo nel sottolineare che cosa questo significasse dal punto di vista dell'organizzazione interna del Stato Ecclesiastico e dal punto di vista di modello per gli altri Stati europei ed extraeuropei. Ecco, il problema della Rota romana è un problema di rapporto quindi con le altre istituzioni, la Rota di Macerata, la Rota di Bologna, eccetera, eccetera. Ed è un problema però anche di modello generale. Non è un caso, io credo, che dal punto di vista delle procedure, per esempio, le procedure poi della Rota sono quelle che fanno arte sulla tradizione romanistica, comunità dei lottatori, dei commentatori, che diventa il punto di riferimento, per esempio, per il problema di prendere il principio della doppia conforme, come precedente sufficiente per giudicare rapidamente, è un principio da lavorare alla Rota romana, la tradizione del processo romano. E allora altro, un altro aspetto caso una cosa da questo punto, il problema della tassazione. Su questo per il giovane che certamente l'età molto difficile. Volevo ricordare per esempio un fatto molto caratteristico dello Stato ecclesiastico, dello Stato pontificio. Ed è la sono le cosiddette compagnie di ufficio, le compagnie di ufficio che sorgono molto meglio, che cosa sono, brevemente forse a qualcuno potrà interessare di che si tratta. In tutta Europa si usa vendere gli uffici ed anche nello Stato pontificio. Le compagnie di ufficio sono una specie di società per azioni, potremmo dire, anche in maniera molto impropria, con la quale un gruppo di persone riunisce dei capitali ed acquista un ufficio in testa ad un personaggio che può non appartenere a questo gruppo che si è consorziato e poi ripartisce i tutti. Qual è l'importanza di questo modo di organizzare le cose? Che ripeto appare nello Stato Pontificio già nella seconda metà del 500, ci sono dei trattati molto differenti, uno di Giorgino Boccacci, che non altro di Francesco Lantracano, ancora una volta sul tema interverrà poi in maniera secondo me illuminante nella seconda metà del 600 il De Luca a definire tanto la natura giuridica di questo tipo di strutture, che si tratta di un contratto di mutuo, eccetera, eccetera. Ma che cosa serve? realtà al di sotto di queste discussioni politiche, da Boccaccio a Castracani fino a Deriva, c'è il discorso della razionalizzazione di due cose fondamentali. Cioè, uno, il problema della razionalizzazione appunto del sistema diciamo finanziario, lo Stato politico, ripeto, di questo che dovrà una risposta di molte cose. Due, il problema della razionalizzazione o comunque del controllo di un meccanismo di promozione sociale. Se noi pensiamo qual è il ruolo della, visto della legalità di giustizia in una serie di stati, soltanto la Francia, ma anche l'Italia, come meccanismo principe di promozione sociale, quindi lo Stato costituito si crea tutto un meccanismo molto per tempo, come già prima del 600, tutto un meccanismo che contemporaneamente interviene su tutti i due aspetti, l'aspetto della razionalizzazione delle finanze condivise, quindi assicurando una vendita, diciamo, finita di tempo, ma non concentrata solamente nei periodi di emergenza, la vendita degli uffici si svolge in maniera più ordinata, perché in qualche modo il mercato è retto da una rete che poi di società e settori che intervengono su questo terreno e di controllo anche del meccanismo di promozione locale. E quindi concludo con questa parte con qualche osservazione sul rilievo che allora tutto questo ha nella trattativa della Stato che c'è nel periodo di progetto, il decimo, quando per l'appunto deruta il sistema della stabilità. A me sembra che qui venga fuori con chiarezza un progetto generale di revisione e di definizione, quindi un progetto che insieme a uno settore teorico e un versante pratico politico nell'Italia, che non a caso sta, che non a caso interviene con un trattato che è probabilmente il più importante di tutti quelli che c'è, sulla penalità dei giustizi, e che interviene poi invece sul terreno politico immediato, a livello che di Stato ecclesiastico e di cura della quale la dice, per l'appunto tentando di proponere una serie di regolamenti di queste società di costruzione. In altri termini, esiste ancora un altro esempio, c'è una trattatistica teorica una trattatistica che Luca fa a proposito del principe cristiano pratico, in cui tornano tutte le questioni, quale giornale stamattina e c'è per esempio una scrittura che ho trovato che appartiene a una polemica politica precisa da alcuni anni precisi, nella quale mette il problema del contrasto che la presenza della Puglia pone nei confronti del territorio, delle Marche, della Campania, del distretto, eccetera, con perfini, perché in sostanza tutta questa Puglia si dice con l'impoverire questo Stato in lo Stato ecclesiastico per poter appunto svolgere la politica di carattere internazionale che ne so. Cioè voglio dire, per concludere, questo doppio aspetto, questa ambiguità, doppio aspetto di Stato territoriale da una parte, di Stato universale che succede Stato nel momento di gestione, è la ragione per la quale si definiscono, secondo me, direi nel Stato presente, una serie di sistemazioni che hanno valore esemplare e che rispetto all'intera Unione Europea e che spingono enormemente avanti tutta la riflessione politica e giuridica che in Europa si sta conducendo. Il tipo di discorso che Luca Borgo sviluppa attraverso tutte le sue opere mi sembra continua a fare tutto, appena togliamo le prime pagine, butta completamente per aria la tradizione romanista, anche la tradizione strettamente tecnico giuridica. Sistema, diciamo, giuridico che va a definire, è un sistema giuridico che sostanzialmente pone i suoi punti di riferimento del tutto al di fuori della tradizione, comunque abbastanza al di fuori della tradizione romana. E in questo senso vorrei dire proprio lo Stato, proprio il capo, diciamo, Roma, della Roma trecentesca, presenta anche sul terreno della riflessione giuridica e politica una serie di prodotti che sono a mio avviso enormemente avanzati e per certi aspetti molto più illuminanti persino di certi contemporanei autori dell'esito francese. rispetto alle due grandi sistemazioni di domanda della Francia e di comune per la Germania. Ecco, mi sembra per esempio interessante come dice Luca Giuseppe, molto più illuminante di una serie di punti. Questo proprio a partire da una riflessione che solo quest'anno particolare ambiguità della situazione dello Stato territoriale di un'autorità universale a Roma. Poi dopo volevo dire qualche cosa sul bambino, ma partirebbe già troppo lungo, lo dirò magari in una seconda ora. Ringraziamo la professoressa sì. Che rispondente. No, credo sia meglio andare a risposte anche più brevi, più concentrate. Anche perché poi a Mazzacani devo solo ringraziare appunto perché ha chiarito molto di più certe cose e l'ho trascurato, quindi invito soltanto nella risposta a toccare il problema della rotta romana perché è veramente uno dei punti centrali ed è importantissimo. In un suo passaggio De Luca parla di due fasi della rotta come distinti. C'è una prima fase fino alla prima metà del Cinquecento, grosso modo, in cui la rotta è soprattutto tribunale universale. Qui parla di rotta vecchia e di rotta nuova, addirittura di certi passaggi. E poi la rotta, senza mutare nome, senza mutare procedure sostanzialmente, diventa il tribunale dello Stato. Per cui nel Seicento la quasi totalità delle cause discusse presso la rotta sono cause civili dello Stato. Cioè abbiamo un tribunale che punta sostanzialmente il contenuto della sua attività conservando praticamente. Quindi a me pare che poi il passaggio dalla rotta vecchia alla rotta nuova sia una delle cose più interessanti di cui non si sa niente perché ci sono queste centinaia di volumi di raccolte che qualcuno dovrebbe studiare. Anche quando il tribunale territoriale, i giudici sono internazionali, questo è un altro aspetto che è solo della rotta romana, perché i giudici della rotta sono uno della nazione inglese, uno della nazione portoghese, quindi voglio dire, anche quando funziona come tribunale territoriale, ha una composizione internazionale, quindi è veramente un caso giudico, diciamo. E in questo passaggio non è un passaggio solamente appunto di contenuto, di oggetto della giurisdizione, ma anche un passaggio che implica un diverso modo, appunto come diceva anche Mazzacane, implica la fine della tradizione romanistica, insomma, e invece la costruzione di linee di applicazione del diritto direi su basi statuali, e qui ci sarebbe un lungo discorso da fare, per esempio sull'interpretazione che la rotta dà in modo estremamente diverso nella prima metà del Cinquecento e invece nella prima metà del Seicento sul problema del rapporto tra gli statuti locali, gli statuti di Roma per esempio, eccetera, e la legislazione pontificia, insomma, e l'approvazione che Papa, in quanto principe, dà agli statuti municipali e trasformandoli in qualche modo in legge statale. Ma qui non voglio andare nei particolari, c'è per me una causa interessantissima che si trascina in rotta dal 1554 circa fino al 1664, per una serie di appelli, per tutto il secolo, insomma, in cui l'interpretazione che si riferisce in realtà a una dote, un problema di dote, quindi estremamente concreto, viene totalmente rovesciata nel giro di un secolo, ma non rovesciata in modo esterno, proprio in base a questa nuova prevalenza del diritto statuale su resto, ma non voglio fare. Io volevo anticipare un semplice per il quale mi era dolcendo la relazione di Sfida, come ricordo che ho studiato io abbastanza recentemente, che naturalmente sono della via del mondo antico, quindi il sito del Fausto, ma mi è recente antichissima, e avendo voluto fare molti casi, mi sento abbastanza autorizzata a fare uno anche io. Cioè mi ha molto colpito quest'idea del politico sociale che è nello stesso tempo il tentativo di liberarsi da ogni eccesso e la tradizione, quella prima tradizione retorica dei secoli austro e tardo imperiali, la tradizione che io faccio risalire all'aristotelismo, però questo non viene spiegato e citata. In questa tradizione, comunque, il comune finisce con l'identificarsi con l'idea del collettivo, e questa idea di comune assume valenze diverse, valenze multiple, e una di queste valenze è appunto quella che rappresenta l'idea di finito comune, quindi di idea che può essere dominio comune da un lato, e dall'altro con l'idea di comunalità, quindi tutta la coinonia, quindi la vecchia coinonia aristotelica, quindi l'idea di comunanza è data dalla comunanza dei progetti, come dalla comunanza delle idee, come dalla comunanza delle strutture. Quindi in questa fase la vecchia idea aristotelica di coinonia si trasforma profondamente, perché coinonia può essere tanto la comunanza di quanto la polis, la città greca all'interno dell'impero, quanto l'impero. Però questo concetto diventa estremamente complicato. E soprattutto appunto c'è questa idea del politico comune, che è anche finito comune, dalla possibilità di conoscenza comune. Tanto che io proporrei addirittura di riconoscere nel nostro topos di quest'epoca appunto qualcosa che non ha più la valenza logica di tipo aristotelico, ma che si ricollega con la storia, in momento che si parlava appunto del coinostopos, come quello che si arriva con la storia. Allora, a questo punto, se tutto questo è vero, chiaramente anche il diario Extensium può incontrarsi con questo concetto, bisognerebbe secondo me verificare, e quindi qui chi ha studiato l'altro versante, cioè il versante moderno, potrebbe dare un'idea se è possibile verificare in che modo si arriva all'idea di luogo comune come esperienza, quindi di qualcosa che essendo parte della storia è verificabile e conoscibile da parte di tutti, mentre l'esempio mai c'è una connotazione tutto fondamentale. Ora, questo perché è importante secondo me da capirsi? Perché in fondo le due tradizioni che vengono normalmente contrapposte, almeno da quel che io conosco nella geografia, cioè la tradizione neostorica in questo periodo e la tradizione aristotelica, a questo punto verrebbe invece sottoposta a più profonde mediazioni. E anche, è stato fatto più volte, c'è uno qui ad esempio Alessandro Magno Marco Aurelio. Non so, mi pare che Tassini ha detto alla figura di Alessandro Magno. No, di sì. Ora, a questo punto, anche questa sostituzione forse non è del tutto senza significato, perché noi dimentichiamo che Alessandro Magno rappresenta la vecchia tradizione greca, e quindi l'ellenismo con impronta aristotelica, mentre Marco Aurelio rappresenta la visione storica, dove sempre per vera la mia interpretazione di certi sviluppi dell'ideologia imperiale, praticamente la visione storica rappresenta ancora una posizione verticistica all'interno dell'impero, nonostante la comunanza delle classi superiori, mentre la visione aristotelica rappresenta appunto il tentativo di riconfermare l'importanza delle polis, quindi queste comunanze, all'interno di questa più vasta comunanza dell'impero romano. Quindi anche questo è un tema che secondo me andrebbe approfondito. Infine un'osservazione sulla relazione di Tassino, il quale ha cominciato dicendo che secondo lui sono importanti per conoscere questa genealogia moderna, per capire questa genealogia moderna, tra le tematiche, cioè l'aristotelismo, la ragione di Stato, insomma queste cose. Ora questo è naturalmente vero, però anche qui mi pare che sia stata lasciata da parte la riflessione della tradizione giuridica romana. Ora questo può apparire ovvio, perché è chiaro che la riflessione della tradizione giuridica romana è importantissima per la conversione del giudizio imperiale, eccetera, eccetera. Ora ci sono però degli aspetti che secondo me sono uomini ordini. Cioè, in fondo, il problema della politica, cioè la politica, il politico, il genere politico, finisca di rappresentare un salto qualitativo rispetto alla contrapposizione pubblico-privato. Ora, già nel sentiero giuridico romano c'è qualche avvisaglia sul fatto che lo status dei romani all'interno del patto giuridico è qualcosa di diverso sia dal diritto civile che dal diritto pubblico che dal diritto privato, comunque qualcosa di diverso rispetto al diritto civile. Ora, questo è un fatto molto interessante. Ora, se andiamo al corrispettivo che appunto troviamo in età moderna, all'inizio dell'età moderna, se dato riferimento alle opere di descrizione statistica che io conosco, in generale in queste opere la dicotomia territorio e gente coinvolge anche lo Stato, cioè l'Occidente, quindi il potere. Però, come faceva notare Pazzini, in fondo invece noi abbiamo da un lato il potere, dall'altro lato il territorio. Ora qui con un accostamento che forse è facile, quindi dovrebbe essere verificato, io penso che in effetti nel territorio viene in questo caso coinvolta la gente, cioè la gente finisce con far parte del territorio, come ho detto rispetto al sovrano che è invece il soggetto, diciamo questo riferimento. Ora, mi sono domandata, rispetto appunto a questa tradizione romanistica in cui c'è da un lato la persona e dall'altro lato l'evento, quindi il diritto apre l'oggetto alla persona e l'evento, c'è un qualche accostamento rispetto a questa tradizione che vede da un lato l'oggetto e dall'altro lato il territorio, il fatto oggettivo, e quindi le mediazioni, dei fatti qualitativi, vogliamo dire, a che livello avvengono? Avvengono a livello del politico statuale o avvengono a livello del politico sociale? E come avvengono? Ecco, quindi direi che anche questo tema è estremamente importante, proprio perché secondo me va visto non soltanto nel fatto più ovvio in generale della tradizione romanistica che fonda l'impero, ma proprio anche a questi livelli, perché anche qui abbiamo il problema di vedere come veramente l'idea di una terminanza, di una politeia, potremmo dire, con termini aristotelici, si fonde con queste linee invece dello statuale e che cosa quando viene fuori. Adesso per le risposte forse cominciamo con Sierra. Ciao, grazie anche per l'ausilio alla traduzione. No, rispondere è difficile perché, come dimostra questo succedersi di domande, sono tutti professori veramente, quindi, no? È una roba incredibile. Io non so cosa dire a Valerio, nel senso che mi sembra, cioè, io sono, anche io quando avevo accennato al fatto che Alessandro era un Marco Aurelio, osavo sperare che si potesse pensare addirittura proprio a una quasi alternativa, insomma, tra un atteggiamento di tipo aristotelico e un atteggiamento di tipo neostoico. Ecco, il fatto che questo non sia privo di plausibilità mi conforta, e allora sarebbe la pena semmai di studiarci sopra un po' di più, insomma, di approfondire questo discorso qui. Così come anche il discorso degli exempla e del koinos topos, insomma. Ecco, non so, se per esempio si potesse dire, ma non lo so, che il koinos topos corrisponde alla massima, insomma, no? Che prende sempre più piede nel 500, soprattutto nel 600, allora anche qui evidentemente avremmo un ulteriore, cioè la massima in fondo sono pillole, cioè voglio dire, è una cosa che ha a che fare proprio con un uso comune, con un'utenza anche comune, secondo me, e credo anche ha a che fare con un metodo, insomma, che introduce, che dà indicazioni di tipo appunto medio, eccetera, no? Allora, in questo senso, certo, per esempio, quel trattatello degli scarti non mi sembra che contenga massime, non contiene massime, contiene precetti, i quali sono sono retti esclusivamente al 98% da exempla. Quindi sono delle indicazioni che vengono fornite a persone precise mediante il riferimento a esempi che parlano a queste persone precise, cioè sono proprio delle figure, no, di rimando, eccetera. Cosa che invece si perde, mi pare, progressivamente nella trattatistica successiva, dove si afferma sempre di più invece il bisogno di rivolgersi a un'utenza differenziata e così via. Io credo che questo si veda in modo particolare molto bene in questo, nella prestazione, insomma, anche di Museo della Casa, dove chiaramente ormai l'utenza, secondo me, è assolutamente generalizzata e taglia in maniera nuova e originale quelle che erano state e sono ancora, da un certo punto di vista, dal punto di vista sociale, per esempio, le stratificazioni, no? Perché quando, soprattutto, prendiamo il Trattato degli Uffizi, secondo me è culminante questa idea di Monsignore della Casa, che l'unico criterio di distinzione che c'è ormai tra gli amici è tra gli amici inferiori e gli amici superiori, non c'è altro, insomma, che viene interpretato, per esempio, dal romano come segno di barbarie mentale, nel senso che questo è un cultore del vecchio tempo, è un reazionario che è fermo all'età di prima della ruota. Secondo me invece va interpretato come un segno di profonda modernità, di comprensione che i comportamenti che contano vanno al di là di quelle che sono invece delle persistenze sociali in corso di trasformazione. Io però non ho fatto niente altro da dire se non che spero che funzioni, insomma, ecco questa... Innanzitutto sono del tutto d'accordo con quello che diceva proprio Milano di noi, perché volevo dire che forse è troppo in fretta, diciamo, non dare un tecnico sul secondo termine, questa coppia assassina in questo senso, no? Per il resto, siamo d'accordo con te. Vorrei dire che... però da parte mia è consapevole di esplicito, cioè, diciamo, la messa in parentesi della problematica giuridica, che sarebbe però importantissima, perché ci sono delle buone ricerche sulla forte definizione giuridica e delle tradizioni che vengono da qui del contesto di stato vegetariano, e sarebbe interessante sono un'altra che guardi, diciamo, la formalizzazione giuridica di questa coppia sul tipo programma. Certamente, però diciamo esplicitamente l'accento che io pongo sul mondo tedesco è legato, diciamo, al fatto che in questa letteratura, chiamiamola letteratura propagandistica, quello che viene fuori, cosa forse non viene fuori in altre tradizioni del pensiero moderno, è questo problema cognitivo che vediamo dell'alleanza tra tutti i personaggi, cioè di queste regole di scambio, che sono questa traduzione, obbedienza, benessere, che tengono insieme quest'unità, no? Un tema che aveva accennato ieri Ragna era proprio questo, di cosa tiene insieme una forma sociale. Ora però mi pare che la tradizione di Lecca sia singolarmente assenta, come abbiamo fatto parecchi anni fa, con questa sua attenzione alla fragilità, a questa forma specifica del rapporto di un insieme fatto e tutto, e questa che io chiamo con termine stamattina di cambio così. È chiaro che naturalmente era solo una ricerca esaustiva, potrebbe forse trasporre da questa considerazione della definizione giuridica del primo istituto sovrano a serie di temi importanti. In realtà ho già perso perfettamente, diciamo, l'indicazione, però appunto voglio sottolineare, insomma, per me è un'affermazione banale, se io fossi un principe moderno darei pochissimo valore alle opere di autori come Thomas Hobbes, di cui stimo moltissimo, mi preoccuperei immediatamente di avere un dormire qualcuno come Lecce. soprattutto, perché credo che senza questo pensiero, diciamo, non si sapeva questa realtà che è stata portata da lei. Questa discussione Ho preso Verdi perché per quanto provinciale, per quanto parlato anche l'altro giorno, tuttavia, potrebbe uno che i libri del suo tempo si leggevano e si c'è una cultura diffusa. E poi un'altra citazione, sempre di prossima diversa, De Rubra, ma qui si parla molto oggi, nel libro che ho visto anche di Tuma, e questo forse non so se non si comporta molto, ma addirittura l'enciclopedia classica, ed è bisogna dire la dama, quando si tratta, quando dice cos'è la politica, dice la politica è un'arte. Per fare la politica ci vuole, ci sono diversi elementi, però alla fine la politica è un'arte. Ora, questa è perché c'è la dispendenza. Ora, mi sembra che questo sia ancora una volta diverso dall'idea del politico che io vedevo questo come ha detto la commissione della Gerardi sulla figlia politico che viene lavorato a Vienna o nell'ambito tedesco. Ecco, dico, è una cosa diversa, una modalità di intervista che immaginare che De Luca e Seckendorf per dire, ma potrei dire di una visione complessiva, ecco, non funzioni, perché in realtà ci sono delle traduzioni molto diverse, io credo, no, se mi sappiamo quasi niente, per cui, ad esempio, l'esperienza della, per cui dal punto di vista di quella dell'idea possiamo dire, l'esperienza della canalista tedesca diventa rilevante, ma in un momento determinato, io credo, se non come storia dello spirito europeo o qualcosa di simile, non ho guardato problemi in questa affermazione, e così si struttura la via, diventa importante dopo la rivoluzione francese, o in generale, e in alcuni anni in particolare, con la continua indignazione. Ma il pensamento forense dei Galanti, no? Ha due righe che cambia la politica e dice, è scritto nel 2006, no? Dice, peccato che questa cosa l'abbiamo conosciuta soltanto adesso, nel 1806, e quindi voglio dire, nel 1804, quindi voglio dire, queste idee non sono poi così diffuse, così generali. Mentre dice ha lavorato un po' su Donnerfest, in Italia quando viene tradotto viene portato la qualità di contatto e viene praticamente annacquato, no? E reso più riconoscibile rispetto a quello che era originariamente, e questo nella stessa normativa austriaca che diceva dall'impero, no? Ad esempio viene tagliata la parte relativa ai mezzi di polizia proprio, esplicitamente questa era l'ultima parte della pagata se non compare, quindi resta un discorso tutto così, è opportuno che bene che, ma poi come si fanno prima a realizzare questo si ritiene opportuno, non dicono che ritiene che non si ricava tutto. Ecco. Io mi chiedo allora, l'esperienza del gruppo di ufficio è una anomalia, ma mentre quando mi parlava mi chiedevo, appunto, dopo ho detto che il termine Papa Re si trova non prima del 600, mi sembra, non si trova del tutto. Ecco. Allora mi sembra che questo sia importante, questo fatto. E quando si sta parlando di bisogna cambiare le leggi della dottorata di quelle politiche, no, ma questo bisogna è ostativo o è, come dire, descrittivo di ciò che è stato fatto? Ecco, mi sembra poi che in realtà si fatta in un modo e i domani, io conosco l'esperienza, un po' con l'esperienza italiana e probabilmente quella dell'Europa mediterranea, ecco, e quindi molto limitata. Ma questa è una cosa che non si può perdere in questi qua non non avevano la possibilità di usare l'influsso del sacerdote, no? Ma in modo, ma utilizzano qualcosa di diverso, riutilizzano nella fine del 500, nel senso il feudalesimo, cioè le categorie aristocratiche tradizionali. Quando in Toscana, un libro che non ricordo quale, sia Lorenzo e Santo Stefano, proprio perché diceva Angiolini, lo crea esattamente con l'idea che questo non deve servire a combattere, ma deve servire a organizzare la società in forma aristocratica, cioè questo sovrano non deve diventare, diciamo, il capo dello Stato, no? O meglio, può diventare un capo dello Stato soltanto utilizzando le strutture aristocratiche che si trova lì. Amici, credo sono più gli esempi, i Ducati di Manto, non so se l'ho detto prima, ho studiato, secondo me, nel 600 c'è addirittura un rovesciamento del rapporto principe-aristocrazia, perché anche i soldati fanno un piccolo ordine, no? Chiaro che sono delle redentore, delle spalle del sangue, in realtà non fa niente, se non dimostrare che il Gonzaga è legittima anche come cavaliere di Cristo, anche come cavaliere e di Cristo. Quindi insomma, c'è questa integrazione di questi due elementi, piuttosto che l'elaborazione di una statualità di tipo moderno, insomma, no? Come, a me sembra che, io concludo, cioè, che il problema di questa statualità si ponga, e quindi voglio dire, anche le opere che vengono state utilizzate questa mattina, però la storia di Sierra, in realtà non sono mai univoche, e per chi le legge, perché chi è che le legge? Per chi vengono scritte, no? Il rischio di vedere scritte in una prospettiva politica, no? Per cui l'una come dire, è grande dell'altra, secondo me è pericoloso, perché in realtà queste sono scritte in condizioni, in luoghi e particolarmente per destinatari abbastanza specifici, per problemi che sono i problemi di coloro che stanno intorno a queste scritte, un po' di più. La teoria del Paolo è un po' di utilizzo dalla condizionalizzazione per realizzare i studi, ma gli altri appunto non usano ancora appunto questa ristorazione, la categoria aristocratica, questa aristocratizzazione. Dicevo, è comunque un tema. Il progetto statale non sarà, non viene fuori soltanto potentemente, ma come frattura rispetto al passato, appunto, non a una storia intellettuale che può diventare, ma a una storia, vuol dire sessuale, appunto lo sentivo illuminato, da me l'ha mi ricordo un tanto che mi chiamano di andare nella Pisa, dove parlava dei studi di Venezuela Arbuti, quindi questo termine si dovrebbe usare soltanto nel periodo delle guerre napoleoniche, no? In un punto tecnico. Vuol dire, questo punto sembrava, ma appunto di una possibilità, perché non aspettava di questo punto di vista, mi sembra questo sia anche significativo. Qualche destinatario non era nominato, ma credo fosse l'ambito complessivo della discussione con il tutto il loro. Rispetto alla cosa di Carlo V, ricordo tanto che l'armatura di Milano era un'armatura milanese, che allora era utilizzata soltanto la parata, questa era una cosa di la mostra dei due anni fa a Milano, no? Anche questa sera era una cosa da palazzo, cioè una cosa che non si fosse in battaglia, era una cosa di anni come questa, no? Non sono più da battaglia. Quindi il fatto che vada della ricordo, no, mi fa piacere. Comunque è solo quello, non era di documentare. Poi ne ho specchiato apposito per fuori. Siamo nella allora Piero. No, io non c'è niente da rispondere, credo che sia stato un incremento questo qui di mortali di cui bisogna tenere conto nella discussione, no? Cioè non lo so, così, a me non vedo come cosa, non c'è niente da rispondere, cioè, probabilmente ci sono sempre... Posso dire? Prego. Per tornare, non c'è problema. Volevo osservare, da rispetto che ci fosse rimasto del tempo in sede di relazione, come anche la scelta dei modelli e dell'abbigliamento del re tra 4 e 500 sia parte di un contrattualismo nei confronti del re. Inutile parlare adesso del re guerriero, la fine del re guerriero, da Carlo V a Filippo II, ma per portarci dalla Spagna alla Francia. I comportamenti di Carlo VIII e di Francesco I. Carlo VIII re crociato e cavaliere, Francesco I che combatte a Marignano, si fa investire cavaliere dal Bagnano, danno ragione a Machiavelli. Cioè, se si fa uno studio comparativo della struttura sociale e militare di Francia e Spagna nel periodo della scelta degli Stati nazionali, notiamo come i ceti contrattano in modo diverso. Cosa succede in Francia? Che l'aristocrazia ha una maggiore, la grande aristocrazia, quindi la gendarmerie, ha una maggiore forza contrattuale, allora impone al re di allestirgli l'artiglieria e di pagargli i nazionali svizzeri per consentire il perdurare di una forza militare dell'aristocrazia pesante, della cavalleria pesante e quindi dell'aristocrazia in battaglia. E abbiamo quel tipo, in seguito a questo genere di contrattazione, abbiamo quel tipo di struttura militare. Laddove invece in Spagna succede qualcosa di diverso. Ecco, volevo dire che l'atteggiamento del re, l'iconografia del re, è legato al rapporto, mi sembra, molto legato al rapporto tra il re e il ceto. No, dico, è banale, non pretendevo di dire. Filippo II, a un certo punto, a me pare che l'abito nero della Spagna della Controriforma sia un uniforme del servizio dello Stato. Qui torniamo al rapporto Stato e Chiesa di ieri. Che cosa nasce prima? L'uomo o la gallina? Cioè, che cosa nasce prima? L'austerità controriformistica e aristocratica, le leggi suntuarie, il discorso economico, il modello, oppure il desiderio del re di incarnare il modello del disagio, cioè del tipo aristocratico, di non creare grandi fratture, grandi differenziazioni in sede di abbigliamento, quindi di accesso al lusso, tra i diversi livelli interni all'aristocrazia. Noto per inciso che non sempre il destinatario positivo della proposta la capiva. Per esempio, un capitano di Italia, mi pare fosse Ghirù, si ribella contro il vestito nero, che poi lo favorisce perché era un piccolo ufficiale. Allora, tutti i vantaggi a vestirsi nero.